Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Nella tana del leone. Ad Alexander era stato detto più volte che era sempre il benvenuto in casa Potter. Non si sarebbero fatti scrupolo di mandarlo via se non fosse stato gradito, dicevano. Sebbene non fosse mai accaduto, non riusciva a sentirsi ben accetto. Aveva sempre l'impressione di interrompere un rito di famiglia, privato e perentorio. Case e famiglie lo spaventavano e provava per esse un rispetto esagerato. La porta posteriore si apriva sulla cucina, dove Winifred stava in piedi davanti al lavello. Tese le braccia a Marcus, che le evitò, e propose ad Alexander di fermarsi a cena. «Era quasi pronto», disse, «non c'erano problemi ad aggiungere un posto». Alexander avrebbe trovato gli altri in salotto. Winifred si ergeva dritta e rigida, dalle calze di filo di Scozia alla gonna grigia, all'ampia camicia a fiori, fino a una pesante corona di capelli biondi intrecciati che andavano irrigendo, la cui severità era mitigata da un'increspatura di doppie punte che catturava un velo di luce. Pareva l'immagine vittoriana di un'esausta divinità scandinava, il naso dritto danese e gli occhi ravvicinati comuni a molti abitanti del North Yorkshire. Aveva inoltre un'espressione da giudice, ma Alexander non ricordava di averla mai sentita parlare se non in tono conciliante. Di fatto parlava di rado, con l'accento marcato dello Yorkshire. Alexander la conosceva da quasi un anno, quando aveva scoperto che aveva una laurea in letteratura inglese conseguita all'Università di Leeds. Bill Potter e le figlie erano seduti in silenzio. Il salotto era il tipo di stanza in cui Alexander immaginava vivesse la maggior parte degli inglesi, sebbene ne avesse frequentati pochi simili a questo. Era piccolo e stipato di mobili, un divano e due poltrone foderati con uno spesso tessuto color ruggine, un ingombrante radiogrammofono curvilineo, un camino con una cornice di piastrelle sangue di bue e angoli smussati, uno scrittoio di noce con piedi ad artiglio molto vagamente direttorio, due puff, due lampade a stelo, due set di tavolini. Le porte finestre stavano sul giardino sul retro, tra tende di lino nei toni ruggine, salvia e rosso sangue. Sul tappeto, piuttosto liso, si intravedeva un albero orientale e vaghe sagome di uccelli appollaiati tra i rami curvi, anneriti dal tempo. «Alexander!» disse Bill. «Che sorpresa! Prenda una sedia!» «Ti lascio metà del divano!» offrì Frederica, che vi era distesa. Alexander prese una sedia. Bill si rivolse al figlio. «Com'è andata la prova di storia?» «52». «E come ti sei piazzato?» «Non lo so, ottavo o nono». «Certo, non è la tua materia principale». «Già». «Fa vedere i gatti ad Alexander», disse ruvidamente Frederica a Stephanie. Stephanie se ne stava accovacciata accanto a un tavolino con una pila di quaderni. Si raddrizzò, stiracchiandosi. Era una ragazza bionda, dolce e mite, con grandi seni, gambe eleganti e una pettinatura alla Paggetto un po' troppo rigonfia. Si era appena laureata con lode a Cambridge e ora insegnava nel suo vecchio liceo a Blessford. «Mia figlia Stephanie», disse Bill, «ha la vocazione del samaritano. Si potrebbe dire che ne soffriamo un po' tutti. A lei piacciono i salvataggi, creature vive, metamorfose, preferibilmente spacciate. Molto spacciate in questo caso, direi. Non sono ancora morti, Stephanie?» «No, se superano la notte potrebbero farcela». «Vuoi dire che starà in piedi tutta la notte?» «Credo di sì». «Posso vederli?» chiese Alexander molto educatamente. Ne avrebbe fatto volentieri a meno. Stephanie spostò verso di lui di qualche centimetro la voluminosa scatola che teneva accanto alla sedia. Lui si curvò, rapido. I suoi capelli sfiorarono quelli di Stephanie, che emanavano un buon profumo di pulito. Era sempre la stessa, a quanto pareva. Sana, si muoveva e parlava con parsimonia, creando un'atmosfera di leggera pigrizia fisica e mentale, talora gradevole, talora esasperante per gli altri. Nella scatola c'erano tre gattini prematuri, le cui testoline sproporzionate si urtavano e strofinavano debolmente. Erano untuosi, umidicci, rettilei, con minuscole zampe spelacchiate e annaspanti. Stephanie ne sollevò uno. le stava arrotolato nella mano come un feto. «Li strofino con un panno di flanella per tenerli caldi», disse con dolcezza, «e li nutro molto spesso col contagocce». «Dove li hai trovati?» «In canonica, la grande morte è stata scritta in Bibbia». Proseguì il racconto con dolcezza, senza cambiare tono di voce. «Stavo prendendo il tè con la signorina Wells quando ha bussato alla porta il vicario per dire che la figlia della donna di servizio urlava come una forsennata, e così mi sono precipitata in cucina e ho trovato la gatta. Non c'era più niente da fare. Per un po' ha continuato ad ansimare e contorcersi, e poi è morta». «Devi raccontare proprio tutto?» chiese Bill. Marcus, tenendosi il più lontano possibile dai gattini, mise le mani tra le ginocchia e cominciò a comporre una sorta di schema matematico usando le nocche e la punta delle dita. «C'erano questi e altri tre nati morti. La bambina era fuori di sé, quasi isterica. Ho il sospetto che sia stata lei la causa di tutto. Deve aver preso in braccio malamente quella povera bestia. Così le ho detto che avrei cercato di salvare i piccoli. Restare alzata tutta la notte è una seccatura». L'esserino nel palmo della mano emise un gemito stridulo, un richiamo che non aveva la forza di essere uno strillo. Frederica intervenne con la sua voce brusca. «Non sapevo che le gatte morissero di parto. Credevo che crepassero e basta. Pensavo che fosse una prerogativa delle eroine dei romanzi». «Le si deve essere attorcigliato qualcosa dentro. Povera bestia, con la fosa. Troverò loro casa, credo, se vivono». «Una casa», ribatté Federica con ironia. «Una casa, se sopravvivono». «Sì», annuì Stefani conciliante. Alexander si alzò, un po' nauseato dalla nidiata e dall'odore di parto. Aprì la bocca per spiegare il motivo della sua visita. Bill, che nel frattempo aveva raccolto le forze per un discorso, cominciò a parlare nello stesso istante, come sua abitudine. Alexander, seppure spiazzato, come sempre, richiuse la bocca e si concentrò su Bill. «Saprebbe dirmi?» esordì scavalcando il tentativo di conversazione di Alexander e indicando il figlio con un movimento brusco della testa. «Che giudizio hanno su di lui gli insegnanti?» «Decisamente buono». Alexander era imbarazzato. «Per quanto ne so, lavora duro, lo sa». Lo so. «No, non lo so. Nessuno mi dice mai niente, e lui meno di tutti». Alexander lanciò un'occhiata furtiva a Marcus. Sembrava semplicemente che non stesse ascoltando. Per quanto assurdo, era un comportamento credibile. «Se lo chiedo io», proseguì Bill, «se sono io a chiederlo, e in qualità di padre, non ottengo che risposte evasive. Nessuno mi garantisce che faccia bene quanto dovrebbe. Nessuno è disposto a una qualche critica costruttiva, niente. Si direbbe quasi che il ragazzo non esista, che sia invisibile». «Io gli insegno soltanto inglese, che per lui è una materia secondaria, e sono piuttosto soddisfatto». Mentre pronunciava quelle parole, Alexander si chiese cosa significasse «piuttosto soddisfatto» in quel contesto. Ma la cosa tremenda era che il ragazzo in parte era, senz'altro di proposito, pensava Alexander, invisibile. «Soddisfatto, piuttosto soddisfatto. Ora mi dica, in qualità di insegnante, di specialista d'inglese e uomo di lettere, cosa intende esattamente con «piuttosto soddisfatto»?» «A tavola», annunciò imperiosamente Winifred dalla porta, come se fosse stata allertata per metterli tutti in salvo. Le ragazze si alzarono, Marcus se la svignò. Sulla tavola era stesa una tovaglia di plastica, che con innaturale artificio imitava su un lato un damasco bianco-rosa e sull'altro un percale a puntini rosa. Winifred apparteneva a quella generazione di casalinghe del tempo di guerra per le quali la plastica, ogni tipo di plastica, costituiva un miracoloso risparmio di fatica e il colore, ogni colore, una fonte indiscutibile di libertà e conforto. Quel giorno il lato damascato era apparecchiato con la pesante argenteria che i Potter avevano ricevuto come dono di nozze, con sottopiatti di plastica, imitazione del vimini intrecciato, tovaglioli di ruvida tela, vagamente scozzesi, infilati in anelli d'argento troppo grandi, reliquie di un modo di vivere più robustamente cerimonioso, matrimoni, battesimi, cui Potter avevano in parte rinunciato senza aspirare a niente di più raffinato. A centro tavola c'era una serie di vasetti. chutney, ketchup. Frederica e Stephanie erano entrambe innamorate di Alexander e si preoccupavano dell'impressione che si sarebbe fatto di tutto ciò. Alexander era informale ma distinto. C'era una sorta di noncuranza nella sua bellezza. I capelli castani, lunghi e sottili, ricadevano con leggerezza sulla fronte pensosa. Tutto in lui era sottile e slanciato, elegante e di buon taglio, ma con garbo, senza ombra di affettazione. Le ragazze temevano che Alexander li trovasse volgari. Avrebbero voluto presentarsi a lui in modo diverso. Il loro imbarazzo era peraltro complicato dalla sicurezza morale che sarebbe stato meschino e ingiusto da parte di Alexander basarsi sulle apparenze per giudicare i Potter e che sarebbe stato altrettanto meschino e ingiusto se i Potter si fossero preoccupati del giudizio di Alexander, quale che fosse. E poi ciò che contava era la vita interiore e la rettitudine e non saperlo sarebbe stata la cosa più meschina di tutte, così pensavano. Anomalo punto di vista che si era impresso nel carattere stesso dei Potter e li teneva uniti. In maniche di camicia arrotolate sulle braccia dalle vene azzurrine, Bill scarnificava Montone Freddo, dispensava cavolfiore e patate lesse, sempre interrogando e incalzando Alexander sulle abitudini intellettuali del figlio. L'ossessiva ostinazione era un altro tratto del carattere dei Potter. Secondo Bill, Marcus aveva letto solo i romanzi d'avventura. Voleva sapere se era strano. All'età di Marcus, lui aveva già letto tutto, Kipling, Dickens, Scott, Morris, Macaulay, Carlyle, tutti quanti. Anzi, quando aveva l'età di Marcus, il ministro della congregazione gli aveva confiscato Jude l'Oscuro e aveva invitato la famiglia e gli amici di Bill ad assistere al rogo del libro. Nella stufetta della cappella. Aprì il piccolo sportello rotondo e infilò il povero Jude tra le fiamme ardenti con le molle. Indi sermone sui pensieri malvagi e l'arroganza dei semi-analfabeti, ossia quelli come me. E lei come reagì? Lo ripagai con la stessa moneta. Un olocausto. Spazzai via tutti i pamphlet missionari. Non ebbi il fegato di pronunciare un sermone, ma ne scrissi uno, che Dio mi perdoni, nel mio stile migliore, e lo affissi in bacheca, spiegando che auto da fe significa atto di fede, come sapevo anch'io, per quanto semi analfabeta, e che quello era il mio, e scrissi che, secondo me, erano dannati per la loro falsa logica, i falsi valori e la prosa sdolcinata, e per aver bruciato Jude prima che finissi di leggerlo. Alexander sorrise imbarazzato. Mi stupisce che i suoi non l'abbiano cacciata di casa. Oh, lo fecero, certo che lo fecero. Me ne sono andati il giorno dopo, con un baule di metallo nero pieno di libri e qualche indumento. Non li ho più rivisti. Winifred ci ha portato le ragazze una volta, ma quanto a me, non mi lascerebbero mettere piede in casa se anche volessi andarci, e non voglio. No. Mi misi a fare il rappresentante di commercio, biancheria e cinti erniari maschili. Approdai a Cambridge grazie ai corsi per studenti lavoratori e le scuole serali. Finì di leggere Jude. Imparai la lezione. Le cose per cui si sono sofferte per combattuto acquistano valore. Alexander era colpito dal racconto e stava per dirlo quando Frederica si intromise. «Strano allora che proprio tu bruci i nostri libri. Io non brucio libri. Tu bruci i romanzi che non ti piacciono, censuri le nostre letture.» Bill trangugiò rumorosamente. «Io un censore? Chi scrisse a quella vecchia zitella rinsecchita quando sei stata così stupida da farti requisire Lady Chatterley a scuola? Aggiungendo per di più che era una sciocchezza non avere l'arcobaleno e donne innamorate nella biblioteca della scuola. Non sono stata io a chiedertelo, anzi avrei preferito che non lo facessi. Quell'idiota rispose, se non sbaglio, dicendo di aver acquistato 6 copie di un libro intitolato «Quel radioso momento, ovvero come nasce un bambino». A quanto pare la riteneva una controprova della sua apertura mentale. «È timida», disse Stephanie. «Le sue intenzioni sono buone». Frederica era arrabbiatissima. Lanciava sguardi furiosi a destra e a manca, incerta se prendersela con Bill o con quel radioso momento. D'accordo, è un libro del tutto inutile, pieno di diagrammi che si possono trovare su qualsiasi scatola di Tampax e un sacco di sciocchezze sulla felicità suprema e la profonda confidenza amorosa e il cubius del tesoro virginale. Metafora francamente assurda, come se ci fosse qualcosa dentro. E non mi piacciono i suoi discorsetti da beghina. Non voglio che la mia biologia sia contaminata dalle sue rapsodie religiose. No, grazie. Quella donna non sa un bel niente. Sei stato tu a mandarci in quell'orribile liceo e adesso non ci lasci libere di cavarcela a modo nostro. Mi rendi la vita impossibile con le tue lettere alla signorina Wells su sesso, libertà, letteratura e tutto il resto. Io non brucio libri. Invece sì. Hai bruciato tutti i volumi della Collana dei Cristalli e i romanzi di Georgette Heyer. Ah sì, rispose Bill con indubbio piacere retrospettivo. Questo sì, ma non erano libri. Erano innocui e mi piacevano. Erano fantasticherie pruriginose e volgari e menzognere, se questa parola conserva un qualche significato. Bill prese a dissertare sulla verità nella letteratura. Alexander lanciò un'occhiata furtiva all'orologio. Winifred si domandò, come faceva spesso, perché Bill avesse quell'insopprimibile bisogno di litigare così brutalmente, di discutere con tanta acredine con l'unica figlia che aveva ereditato la sua stessa indiscriminata e fastidiosamente analitica passione per la parola scritta. Winifred ricordava l'episodio dei cristalli. Bill, non si era mai saputo quale intuizione l'avesse spinto a curiosare, li aveva trovati nascosti in una scatola sotto il letto di Frederica. Schiumante di collera ed ebbrezza, li aveva presi e li aveva inceneriti nel bidone bucherellato in cui bruciava i rifiuti del giardino. Cristallo dopo cristallo. Si erano disintegrati e anneriti. Brandelli friabili e crepitanti di carta e pallide fiamme si levavano e danzavano nel cielo estivo. Bill alimentava il rogo con un bastone di ferro come se officiasse un rito. Frederica gli girava intorno sul prato agitando le braccia e urlando furibonda. Winifred era preoccupata per quella figlia. A volte Frederica sembrava posseduta da un demone. Le pagelle trimestrali definivano aggressivo il suo stile e perfino la sua grafia. Winifred ci credeva. Stephanie, più mite e pigra, veniva giudicata più intelligente. E Marcus, di questo Winifred non dubitava, era un ragazzo affabile e indipendente. A Winifred piaceva vedere come in quei due l'ira fosse temprata dalla sua stoica pazienza. Frederica, invece, al momento del caffè, Alexander riuscì finalmente ad affrontare l'argomento per cui era venuto. La prese alla lontana, con un preambolo su Crow e i suoi progetti per la nuova università, su cui Bill sollevò immediate obiezioni. «Era perfettamente al corrente», disse ad Alexander, «delle varie trattative. Crow era come un vecchio ragno. Sarebbe rimasto nelle sue torri a tessere ragnatele per mosche acculturate e si sarebbe fatto nominare vice-rettore, che Alexander prendesse nota». Quanto all'uomo del nuovo rinascimento, non ce n'era bisogno, grazie tante. Leggere, scrivere e far di conto, insieme a esperienza diretta e capacità d'espressione, sarebbero stati più che sufficienti. Alexander disse che ci sarebbe stato un festival e che anche lui aveva scritto un testo teatrale e avrebbe gradito l'opinione di Bill in proposito. L'avrebbero messo in scena in occasione del festival, era fortunato. Accennò ai progetti di Crow per ravvivare la vita culturale della zona. Aggiunse, esitante, che avrebbero avuto bisogno di Bill e che sperava di poter dedicare un po' di tempo, durante l'ultimo trimestre, alla propria opera, ma che questo dipendeva da Bill. E di cosa si tratta? Una sorta di ricostruzione culturale? No, un dramma storico, un dramma in versi sulla regina Elisabetta, esitò. Volevo intitolarlo Una dama sorpresa dal tempo, per via del ritratto, ma abbiamo preferito Astrea, perché è più facile. Si accorgeva che Bill trovava tutto ciò pretenzioso, accademico e sbagliato. Beh, disse Bill, sarà meglio che me la faccia leggere. Ne ha una copia in più? Alexander tirò fuori uno dei copioni ciclostilati da Crow. Si rese conto, con un certo sgomento, che Bill non era mai stato sfiorato dall'idea che lui potesse aver scritto qualcosa di buono. Frederica disse, «Potremmo recitare nel tuo dramma. Facciamo parte anche noi della cultura locale. Io voglio fare l'attrice. Oh, disse Alexander, naturalmente ci saranno delle audizioni, parecchie, per tutti, scuole comprese. Quanto a me, vorrei suggerire che Marcus, se ne avesse voglia, fosse preso particolarmente in considerazione per una certa parte. Volevo sapere cosa ne pensa lui e cosa ne pensa lei, Bill. Io penso che nell'Amleto abbia mostrato un vero talento. Infatti, disse Alexander, è quello che penso anch'io. E c'è una parte ideale per lui. Edoardo VI, scommetto, disse l'incontenibile Frederica. Sarebbe perfetto, beato lui. No, intervenne Marcus, grazie. Io penso che potresti farlo, nonostante lo studio, disse Bill. No. Spiegaci almeno perché. Non posso andare a tentoni senza occhiali. L'hai fatto con Ofelia. Non so recitare, non voglio. Non voglio recitare, non posso. Ne discuteremo quando sarà il momento, disse Alexander, intendendo in assenza di Bill. No! Disse Marcus alzando la voce. Suonarono alla porta. Frederica si precipitò ad aprire e tornò per annunciare con solennità: c'è un curato. Vuole vedere Stephanie. Fece sembrare l'annuncio un assurdo anacronismo. Un episodio estrapolato da una parodia di Charlotte Bronte o di Elizabeth Gaskell. I curati non andavano in visita ai Potter. Nessuno ci andava, a essere sinceri. E i curati che ancora si recavano da qualche parte, di certo, non andavano dai Potter. «Non farlo aspettare, non sta bene», disse Winifred. «Fallo accomodare». Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.